giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Timore di una stangata nei conguagli delle spese condominiali per le case ATER. La direzione lavora su accorgimenti per ridurre i consumi. Qualche inquilino chiede di staccarsi dall'impianto centralizzato. Assegnata a Trieste l'edizione 2024 dei Big Science Business Forum, un simposio internazionale delle istituzioni scientifiche. Continua a salire l'incidenza settimanale dei nuovi casi da coronavirus. In regione sono stati superati 500.000 contagiati dall'inizio della pandemia. Approda in commissione consiliare regionale la proposta di legge nazionale per modificare le regole dei ricongiungimenti familiari degli immigrati. Sarà completata nel 2026 la riqualificazione della vecchia birreria di via Rive Fontana a Pordenone. Ospiterà l'Istituto Tecnico Superiore Alto Adriatico. Due giorni dedicati alla viticoltura d'eccellenza a Raucedo, in programma degustazioni, convegni, approfondimenti per gli addetti ai lavori. Si moltiplicano gli appuntamenti in vista della Barcolana di domenica, ieri altra prova generale per i maxi che saranno protagonisti della regata. Ha prevalso lo sloveno Clean Sport One, oggi sarà la volta delle imbarcazioni che da Ravenna raggiungeranno il Golfo di Trieste. Numerosi anche gli eventi a terra. Il ritrovamento dei resti di due navi romane nella laguna di Grado consente di conoscere nuovi particolari sulla storia antica della zona costiera. Si inaugura al PAF di Pordenone la mostra dedicata a William Erwin Eisner, creatore di The Spirit. 7:19 minuti e 45 secondi, buona giornata da Anna Daciocca e Paolo Roncoletta. Anzitutto uno sguardo al tempo. Il cielo si presenta prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 7. A Trieste abbiamo 19 gradi con vento da est levante a 25 km orari, nella notte le raffiche di Bora hanno superato i 50 km orari. A Gorizia abbiamo 18 gradi, poco meno di 15 a Udine, 12 gradi a Pordenone, 11 gradi a Tolmezzo, 9 gradi e mezzo a Forni di Sopra, 6 gradi a Tarvisio e sul monte Zoncolan, 4 gradi e mezzo a Sappada, 6 gradi sul monte Lussari, poco meno di 18 gradi a Lignano, 19 a Grado. Le previsioni, cielo in genere sereno, poco nuvoloso per il passaggio di velature, sulla costa al mattino soffierà boda moderata, al pomeriggio brezza. Gli amministratori di condominio hanno espresso preoccupazione per gli impianti di riscaldamento centralizzati qualora non si riuscisse a pagare le bollette, perché alcuni inquilini non dispongono di denaro a sufficienza per il conguaglio, si rischia la sospensione della fornitura di gas per l'intero condominio. Altra situazione è quella delle case ATER, dove vivono famiglie con redditi più bassi. I gestori dell'ATER di Udine cercano di correre ai ripari in attesa dei conguagli di fine anno. Siamo tutti preoccupati. Durante i mesi estivi a noi, ad esempio, ci è stato fatto un acconto per il riscaldamento che negli altri anni non succedeva ed è stato abbastanza, insomma, importante. Da 93 di anni fa, nel 2019, siamo passati a 200 e qualcosa. I rincari energetici si abbattono anche sulle case popolari, tra le famiglie più deboli, quelle sotto i 10.000 euro di ISEE. A Udine l'ATER è in allarme già da inizio anno, il direttore Lorenzo Puzzi. Tra Udine e Pordenone abbiamo circa 12.000 famiglie, di cui 4.000 sono con impianto centralizzato. Solo per questi 4.000 abbiamo visto un incremento che è del 150%, ovvero complessivamente di 4 milioni e mezzo su base annua, che significa poco più di 1.000 euro a famiglia. Gli acconti per i servizi energetici degli ultimi mesi, già aumentati, non sono bastati a coprire la spesa, fuori ogni previsione. Ad avere la peggio gli inquilini degli edifici più vecchi. Nessun aumento dei canoni d'affitto, assicurano i vertici di ATER, che stanno correndo ai ripari come possono. Riducendo gli orari dell'accensione degli impianti, diminuendo le temperature, e abbiamo chiesto anche agli inquilini e ai proprietari di ridurre i consumi. Qualcuno ci sta già chiedendo di staccarsi dall'impianto. Non abbiamo ancora rilevato un aumento di morosità, ma avremo dei conguagli che saranno molto impattanti sulle famiglie e quindi abbiamo il timore che possa manifestarsi questo fenomeno. In corso da quasi 20 anni, il programma di efficientamento energetico ha ripreso impulso col bonus 110%, ma non basta. Per l'immediato serve il sostegno pubblico, rilanciano dalle ATER regionali che con comuni e regione stanno facendo sistema per far fronte a un'emergenza sempre più grave. Perché non sappiamo dove andiamo a finire, perché non c'è un limite, non c'è una fine. Io cerco di risparmiare il più possibile. Riscaldamento dove non abito lo lascio spento, uso di meno il forno e cerco di risparmiare dove si può. Io ce la faccio con 1000 euro al mese, però c'è gente che ne prende molto di meno e poi c'è anche la preoccupazione di chi perderà il lavoro. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Il Forum Internazionale dei Centri di Ricerca del 2024 si svolgerà a Trieste. Un'occasione di confronto fra scienziati di tutto il mondo. È previsto l'arrivo di almeno 1000 partecipanti. Trieste è di nuovo protagonista della scienza. Con l'assegnazione della prossima edizione del Big Science Business Forum, che si terrà nel 2024 al Trieste Convention Center in Porto Vecchio, la città giuliana conferma di essere al centro delle iniziative per l'innovazione e la ricerca. L'evento riunisce i maggiori centri di ricerca internazionali e punta a far collaborare il mondo della scienza con le imprese. L'edizione 2022 si tiene in questi giorni a Granada e proprio nella città spagnola è intervenuta oggi l'assessore regionale per l'istruzione e la ricerca Alessia Rosolen, chiamata a partecipare alla cerimonia del passaggio del testimone. È una sfida importante che Trieste raccoglie da Granada all'interno di tutto lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e del mercato europeo. Trieste gioca per l'ennesima volta un ruolo di diplomazia scientifica, mettendo a disposizione le capacità del suo territorio. La candidatura di Trieste è il risultato dell'impegno della regione insieme a Promoturismo, Area Science Park, ILO Network Italia e gli altri enti scientifici del territorio. Ospitare la prossima edizione del forum promette effetti positivi anche sul turismo. Secondo le previsioni, alle edizioni del 2024 parteciperanno più di 1000 persone da tutto il mondo. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo di sanità e di pandemia. 500.000 contagiati dal coronavirus dall'inizio della pandemia. Da 3 settimane l'incidenza continua a salire e ha superato quota 700. Il Friuli Venezia Giulia ha doppiato la boa del 500.000 di contagi da Covid dall'inizio della pandemia. La quota complessiva ammonta per la precisione a 500.613 contagi per effetto dei 1.415 nuovi casi registrati ieri, quando sono stati analizzati 6.125 tamponi, con un tasso di positività del 23,10%. Stabile a quota 8 ieri il numero di persone in terapia intensiva, mentre è cresciuto di 10 unità, arrivando a quota 216, il numero di pazienti positivi negli altri reparti. 2 i decessi registrati dal bollettino quotidiano regionale, 1 a Trieste e 1 a Udine. La diffusione del virus continua una crescita ricominciata lo scorso 13 settembre. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre si registra un peggioramento dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 906 contro i 572 di 7 giorni prima, e si evidenzia un aumento dei nuovi casi del 64% rispetto alla settimana precedente. Inoltre sono sopra la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica, 15% contro il 7,6%, e in terapia intensiva 4,6% contro la media italiana dell'1,7%. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Un 32enne di Feletto Umberto è morto stroncato da un malore mentre partecipava ad una videoconferenza. Altre persone che erano collegate da altre regioni, in particolare dalla Campania, si sono accorte del malore, hanno dato l'allarme. I sanitari hanno impiegato del tempo prima di trovare l'abitazione del giovane, che risultava ancora residente a Moimacco, dove invece abitano i suoi genitori. In un momento successivo, vigili del fuoco e ambulanza sono giunti a Feletto Umberto, ma ormai il 32enne era morto. Sono appena riprese le ricerche di Alberto Cacitti, l'81enne carnico scomparso da oltre 2 giorni sui monti di Verzegnis. I soccorritori hanno deciso di allargare l'area di ricerca. Una 60 le persone impegnate tra vigili del fuoco, soccorso alpino, guardie di finanza. Ieri hanno operato 2 elicotteri, quello della protezione civile e quello dei vigili del fuoco giunto da Venezia. Hanno sorvolato sia le zone non boschive che quelle ricoperte da vegetazione, oltre a una parte del corso del Tagliamento tra il ponte di Amaro e Caneva di Tolmezzo. Inoltre erano presenti 2 unità cinofile e la squadra forra del soccorso alpino. Quest'ultima ha perlustrato la forra del Rio Malazza, che costeggia la strada per Verzegnis. Sono stati impiegati anche dei droni, quelli della protezione civile e dei vigili del fuoco di Udine. È stata illustrata in sesta commissione consiliare regionale la proposta di legge nazionale riguardante le regole per i ricongiungimenti familiari degli immigrati. La proposta, primo firmatario il leghista Calligaris, prevede un reddito più alto di quello attualmente vigente, una permanenza minima di 4 anni sul territorio nazionale, un contratto di lavoro di almeno 2 anni, l'obbligo di registrazione del matrimonio contratto nel paese d'origine, il certificato di idoneità dell'alloggio in cui andrà ad abitare il nucleo familiare. Nel corso della seduta si sono svolte alcune audizioni. Favorevole alla proposta di legge il presidente dell'ANCI regionale Dorino Favot, contrario Gianfranco Schiavone del Consorzio Italiano di Solidarietà. La commissione ha dato poi parere negativo ad un'altra proposta di legge nazionale sul tema immigrazione da parte di Furio Honsel di Open Sinistra FVG. Obiettivo della proposta era di includere la denuncia di nascita e l'emanazione del relativo certificato tra gli atti consentiti dalla legge anche in assenza di permesso di soggiorno dei genitori. Firmato il protocollo d'intesa tra Comune di Pordenone e Fondazione ITS Alto Adriatico, finalizzato ad una convenzione per la gestione degli spazi della vecchia birreria vicina alla questura di Pordenone. La riqualificazione sarà completata nel 2026. L'Istituto Tecnico Superiore Alto Adriatico, al posto dell'antico birrificio, Pordenone potrà recuperare la struttura abbandonata ormai da molti anni in via Fontane, nei pressi della questura e del Parco San Valentino, e avere un luogo simbolo di una città che guarda al futuro. La riqualificazione costerà 7 milioni di euro, fondi del Comune, derivanti dal PNRR, per questo vincolati al completamento nel 2026. Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone. 7 milioni di investimento per riqualificarlo completamente, ma un contenitore senza contenuto non avrebbe senso. Questo significa saldare ancora di più l'alleanza tra il mondo imprenditoriale e il mondo della formazione continua, cioè costruire quelle figure professionali di cui il mercato del lavoro ha veramente bisogno. Il rilievo è già stato fatto, l'edificio dovrà essere innovativo a cominciare dal sistema di progettazione e costruzione, il BIM, un modello virtuale cui dovrà corrispondere esattamente la struttura finita. L'ITS Alto Adriatico attualmente è ospitato al consorzio universitario. Si tratta di un corso di 2 anni di studi superiore per i diplomati tecnici che puntano ad una specializzazione mirata. Nell'ex birrificio, aule, laboratori di alta qualità, un'aula magna e una foresteria per gli studenti che vengono da fuori sede. Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico. Noi oggi abbiamo circa 150 iscritti al primo anno, ne avremo bisogno di 300 per la vocazione verso l'ICT che abbiamo generato già nel 2011. È una sede dove c'è un impegno pubblico, è una fondazione che si rivolge come formazioni di skill a tutte le aziende del territorio. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Arauscedo, nota in tutta Europa per la produzione delle barbatelle, questo fine settimana sarà dedicato alla filiera vitivinicola e fiera della viticoltura d'eccellenza con la manifestazione Radici del Vino. Una vetrina promossa dal comune di San Giorgio della Richinvelda. Sentiamo il sindaco Michele Leon. La comunità di Arauscedo, San Giorgio della Richinvelda, è sicuramente in festa per il ritorno di questo evento che celebra fondamentalmente la barbatella di vite e del vino. Quindi sarà una 3 giorni sicuramente di eventi, di incontri, ma anche di momenti per celebrare la barbatella nei confronti delle famiglie e nei confronti dei bambini, perché di fatto noi facciamo un lavoro che è un lavoro molto particolare. E chi ha avuto la geniale intuizione dell'innesto della vite 100 anni fa ha di fatto salvato la viticoltura e del vino. Spieghiamo perché. E alla fine dell'Ottocento arrivò un parassita dall'America che si chiama Fillossera, che si nutre praticamente della linfa che c'è nelle radici della vite europea. La vite europea è quella che dà il vino che noi comunemente conosciamo e consumiamo. E praticamente tutte le piante di vite stavano morendo, le vigne stavano scomparendo. Si è notato però che la vite americana invece, quella che comunemente vediamo strisciare a fianco delle strade, che è una vite infruttuosa, resisteva. E quindi Arauscedo hanno pensato che era necessario innestare, come si fa per il ciliegio piuttosto che per altre specie, una gemma di vite europea su un piede di vite americana. E di lì nacque la barbatella di vite, l'innesto della vite, e Arauscedo oggi è di fatto la capitale mondiale della barbatella di vite, con oltre il 40% della produzione mondiale di queste piante. Alle 7.32 minuti e 30 secondi parliamo di vela. E Step Impianti Clean Sport One del club sloveno Jadro Koper, il vincitore in tempo compensato della terza giornata della Barcolana Maxi, trofeo per Porto Piccolo, svoltasi sullo stesso percorso della Barcolana di domenica. Seconda la Deep Blue del New York Club, terza Echita della Barcola Grignano. Parte da Ravenna questa mattina la regata Go to Barcolana from Ravenna, che porterà gli equipaggi dall'Adriatico centrale fino al Golfo di Trieste, mentre proseguono le evoluzioni dei velisti selezionati dalla Federazione Vela sui foil. La Foil Academy sulle tre classi Skitta, Wasp e IQ Foil è in partnership con Luna Rossa, che ha per ambasciatore il triestino Giulio Giovanella, che fa parte del team di Coppa America. Tra i numerosi appuntamenti a terra, la rassegna Un mare di racconti ospita al Salone degli Incanti alle 16.30 Antonella Sbuels, premio Campiello Junior, con il romanzo Questa notte non torno. A seguire l'autrice italo-albanese Anilda Ibrahimi, autrice del libro Volevo essere Madame Bovary. Alle 21 al Teatro Miele il concerto di Joan Thiele, cantautrice e producer di origini italo-svizzere e colombiane. L'ingresso è gratuito. Mancano 48 ore alla Barcolana. Ieri il trofeo Porto Piccolo ha visto sfidarsi sul percorso della regata di domenica i maxi favoriti per il successo. Fra questi c'è Deep Blue, una delle imbarcazioni da tenere d'occhio. Se le condizioni di vento lo permetteranno, potrebbe essere la favorita di questa barcolana. Deep Blue, alla prima partecipazione alla regata più affollata al mondo, è un concentrato di tecnologia e innovazione. Un 85 piedi varato nel 2020, con a bordo come navigatore il triestino Andrea Visintini, che ha convinto i compagni, quasi tutti statunitensi, a provare a regatare nel Golfo di Trieste. È una macchina di Formula 1 che appunto ha bisogno di tutti i settaggi giusti e deve essere portata da un equipaggio professionista. Io sono l'unico triestino italiano a bordo, l'equipaggio è quasi per intero statunitense e sarà importante ovviamente leggere le condizioni meteo di domenica per impostare la regata, soprattutto la partenza. L'armatrice, la miliardaria americana Wendy Schmidt, è al timone di Deep Blue e dorme su un bellissimo bialbero ormeggiato sullo stesso molo che potrebbe a sua volta partecipare alla barcolana. Nelle regate dedicate ai maxi di questi giorni Deep Blue si è comportata bene, domenica però sarà un'altra storia. Se il vento fosse forte potrebbe provare a togliere lo scettro ad Arca dei fratelli Benussi, che ha un albero più alto e più superficie velica e quindi può andare meglio con raffiche meno forti. Intanto le iscrizioni per questa 54esima edizione della Barcolana vanno verso quota 1500. Il villaggio a tre giorni dalla regata ha cominciato ad animarsi, così come Piazza Unità, rendendo per l'ennesima volta Trieste capitale della vela e del mare sostenibile grazie anche al Sea Summit. Nel pomeriggio è stato presentato il report di Mare Vivo sui rifiuti che si trovano nell'ambiente. La campagna, grazie a rilevazioni satellitari, ha registrato a Trieste la diminuzione del 51% di spazzature e rifiuti di piccole dimensioni abbandonati dall'uomo rispetto all'anno precedente. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. I resti di due imbarcazioni di epoca romana sono stati rinvenuti nella laguna di Grado, un ritrovamento che conferma il ruolo nevralgico che ebbero Aquileia e Grado nell'Alto Adriatico. Ancora protagonisti in laguna l'Università di Udine e il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri, con il prezioso supporto degli instancabili subacquei Nino Caressa, Luigi Zannini e Pietro Spirito. Primo ritrovamento a ridosso del canale interno di Grado, a poca distanza dall'isola della Pampagnola, uno scheletro di imbarcazione di oltre 12 metri. Il secondo relitto invece è al largo della diga, 5 metri di profondità, intelaiatura affiancata della nave e un'anfora vinaria databile tra la fine del secondo e gli inizi del primo secolo a.C. A coordinare l'indagine subacquea Massimo Capulli, docente di metodologia della ricerca archeologica all'Università di Udine. Questi relitti sono due tessere di un mosaico molto complesso che vede da una parte Aquileia, che era una città di mare, anche se noi oggi non lo percepiamo arrivando dalla terraferma, e dall'altra parte la laguna Grado, che in latino vuol dire scalo. Quindi le navi che arrivavano da tutte le parti del Mediterraneo giungevano a Grado e da qui entravano in laguna. Un grande network commerciale che vedeva coinvolto tutto il mondo allora noto. Lorenzo Pella, comandante del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri di Udine. I servizi predisposti dal Nucleo tutela del patrimonio culturale, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi in danno del patrimonio culturale sommerso, hanno consentito quest'anno di individuare un preziosissimo relitto importantissimo dal punto di vista storico. Simonetta Bonomi, soprintendente per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Nelle nostre acque c'è un mondo che ci racconta la storia economica nell'antichità dei nostri predecessori remoti e che sono storie che possono interessare a tutti e che devono essere tutelate. Grado Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Al liceo scientifico Marinelli di Udine oggi verrà inaugurato un murales dedicato al Tiepolo, un'opera di 50 metri per 2 metri e mezzo di altezza che ha coinvolto gli studenti del Marinelli e rientra tra gli eventi del Festival dei Tiepolo 2022 curato da Itineraria. Maria Paola Frattolin è la presidente di Itineraria, le abbiamo chiesto di svelarci i contenuti del murales. È un murale straordinario, è veramente tutto il plauso alla generosità, all'impegno dei docenti e dei ragazzi e la loro passione. E il Marinelli, grazie alla disponibilità immediata del dirigente, professor Stefano Stefanel, che va ricordato perché davvero, come l'abbiamo presentato il progetto più di un anno fa, lui lo ha abbracciato immediatamente chiamando i suoi docenti che hanno messo altrettanta passione. È stato un anno di lavoro, come potete immaginare, viste le dimensioni del progetto. Applauso agli insegnanti perché hanno saputo motivare questi ragazzi che hanno lavorato di giorno e di notte. Lo si vede dalle fotografie che i docenti mi hanno mandato. I temi del Tiepolo, dicevo sì, il tema è il Tiepolo, però se vogliamo il tema è molto più vasto perché la didattica, perché il coinvolgimento dei ragazzi sia dal punto di vista artistico, tecnico, culturale, ma anche di sentirsi parte di una comunità, di una società, della scuola. Lo spirito di Will Eisner è la mostra che si inaugura al PAF di Pordenone, dedicata appunto a William Erwin Eisner, creatore del personaggio The Spirit, che lo ha reso famoso nel mondo. Giulio De Vita, direttore artistico del PAF di Pordenone, come omaggerete Will Eisner? Will Eisner lo omaggiamo con il nostro piatto forte, con una mostra sontuosa, con un allestimento spettacolare ed esperienziale che sfrutta pieno gli spazi meravigliosi di Villa Galvani. Quindi che cosa scopriremo? Cosa portate a Pordenone? A Pordenone arrivano oltre 180 tavole originali di questo immenso artista del fumetto, newyorkese, classe 1917, arricchito da altrettante pubblicazioni, disegni, schizzi, tutti originali, provenienti da diverse collezioni, una newyorkese e una parigina, che raccontano una carriera lunghissima, una carriera che inizia prima della Seconda Guerra Mondiale con il personaggio The Spirit, che è diventato anche successivamente un film di Hollywood, fino ad arrivare ai graphic novel più recenti che iniziano dal 76 fino al 2005, anni della sua morte. Quindi veramente un percorso immenso che proprio ci conduce attraverso la storia del fumetto moderno. L'enciclopedia Treccani ha scelto Trieste per creare il suo primo spazio espositivo del Nord Italia. La Galleria Treccani Arte di Trieste in via Capitelli 4 sarà inaugurata questo pomeriggio alle 18 alla presenza di Massimo Brai, direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. All'evento parteciperà anche il sindaco di Piazza. La serata al Cinema Zero, dove prosegue il Festival del Cinema Muto, si apre alle 21 con la cerimonia di premiazione del Jean Mitry Award, che dal 1986 viene assegnato a personalità o istituzioni che si sono distinte per il recupero e la valorizzazione del patrimonio cinematografico muto. Quindi la proiezione del film Three Weeks del 1924 di Alan Crosland. Il film non era mai uscito in Italia e l'unica copia conosciuta era il Ghost Film Fund di Mosca. Nel 2020 la Cineteca del Friuli si era offerta di ricostruire digitalmente il film e dopo aver recuperato dei file da Mosca il film è pronto appunto per il pubblico di Cinema Zero. Parliamo di musica. Il celeberrimo violoncellista Mario Brunello sarà oggi al Teatro Verdi di Trieste nella veste di concertista e direttore d'orchestra con un programma che propone alcune riletture del Settecento su violoncello piccolo, singolare strumento che ha trovato in Brunello un appassionato estimatore. In programma un concerto in re maggiore di Bach e il concerto in la maggiore di Karl Bach. Quindi Pagine di Nino Rota dal film Il Gattopardo, Romeo e Giulietta e prova d'orchestra. Il concerto inizia alle 20:30. Ancora spettacoli, due gli omaggi a Pasolini a Udine, il primo in chiave jazz in sala Iace alle 17:30. La rassegna di Simulart propone Modern Jazz, omaggio in suite a Pierpaolo Pasolini e al suo Friuli, interpretato dal quartetto composto da Glauco Venier, autore delle musiche, la cantante Alba Nacinovic, i sassofoni di Marcello Allulli e la chitarra di Francesco Diodati. La sera invece nello spazio Officine Vintage di Via della Cisterna, oggi e domani alle 20:45 il collettivo Terzo Teatro di Gorizia Pasolini 100 porta allo spettacolo Pierpaolo Pasolini Pulsioni da Orgia ad Affabulazione. Il collettivo di attori è guidato dalle registe Sonia Dorigo e Piera Rossi. Riflessere, Festival della Legalità promosso dall'associazione Taraccos di Pasiano, si dedica alle scuole. Questa mattina gli alunni di 7 scuole parteciperanno al Teatro Mascherini di Azzano Decimo allo spettacolo La storia di Falcone e Borsellino di Angelo Sicilia. Riflessione su pandemia informazione promossa dal Comitato di Mutuo Appoggio dei Lavoratori di Radio e TV, che esprime critiche nei confronti dell'attuale modo di comunicare e informare a Trieste nella Sala Xenia di Riva 3 Novembre alle 17. A Palmanova si festeggia la fondazione della città di Palmanova con la Fiera di Santa Giustina, che porta in Piazza Grande fino a domenica 100 tra stand di prodotti enogastronomici, hobbisti ed antiquariato. I banchi enogastronomici saranno aperti da questo pomeriggio e proporranno prodotti tipici di varie regioni italiane. Sabato e domenica si aggiungeranno altri 60 banchi di artigiani, abbigliamento e creativi, mentre sotto la loggia della Gran Guardia ci saranno i laboratori educativi per bambini e famiglie su prevenzione e sostenibilità ambientale. I banchi di antiquariato occuperanno Borgo Aquileia. Torna ad allenarsi questa mattina l'Udinese, che domenica affronta al Friuli l'Atalanta in quello che si annuncia come il big match della nona giornata. Ieri i bianconeri a ranghi completi sono stati impegnati in una partitella 11 contro 11. Domani ci sarà la seduta di rifinitura. Pallamano, Jolly Handball, l'unica società friulana di pallamano maschile, si presenta ai tifosi alle 17 nel Palasport di Campoformido. All'evento parteciperanno, accanto agli sponsor, anche il vicepresidente della federazione Gianni Cenzi. Dopo aver sfiorato la A2 l'anno scorso e dopo aver ottenuto il quarto posto nazionale degli Under 17, la presidente di Jolly Handball, Marzia Tavano, è convinta che la società sia pronta per il grande salto. Sarà l'anno della svolta, dice, dopo aver rafforzato lo staff con un preparatore di portiere e un fisioterapista. Con la pallamano Trieste già in A2 dopo la rinuncia alla massima categoria e il dosso buono promosso per la Jolly Handball, la strada sembra spianata. Aumentano però gli iscritti al campionato di Serie B, sono 93 le squadre in tutta Italia, 11 nel girone dei friulani. I club tutti veneti hanno una lunga tradizione, da Oderzo a Paese, da Padova a Malo fino a Vicenza e Venezia. Il primo avversario del Jolly il 15 ottobre in casa sarà San Fiore. 7:45 minuti e 40 secondi, iniziamo la rassegna stampa. Il titolo principale della prima pagina del Piccolo è dedicato alle indagini sulla banda dei Rolex, altre due rapine, vertice in prefettura, così titola il quotidiano di Trieste. C'è poi la fotonotizia del villaggio Barcolana ripreso dal Mola Audace. Tra i richiami l'assegnazione a Trieste dell'Euro Summit della Scienza 2024, l'iter di vendita dei magazzini del Porto Vecchio, vendita definita imminente, uno yacht di lusso in manutenzione alla banchina Eos e un'intervista al violoncellista Mario Brunello. Capocronaca del Piccolo sulla cosiddetta banda dei Rolex, rapina in via Colautti e raggiro a Valmaura. L'aumento dei contagi, più 64% in una settimana, salgono i ricoveri, è il titolo principale del Messaggero Veneto di Udine, che intervista anche il direttore delle malattie infettive dell'ospedale, che dice: non torneremo al passato. La foto al centro della pagina è per la scuola inaugurata in via Aspromonte, green e tecnologica, ospiterà gli studenti dell'istituto in fase di ristrutturazione, è stata costruita in 7 mesi grazie a procedure autorizzative accelerate. Il Messaggero di Udine guarda quindi al turismo invernale, sci a buon prezzo, Promo Turismo manterrà il prezzo dello ski pass più basso dell'arco alpino, rimane però l'incognita sugli hotel, l'innevamento partirà a novembre. Dal Consiglio regionale quindi la Lega, che chiede al governo criteri più severi per i ricongiungimenti degli immigrati, scontro politico in commissione, scrive il quotidiano. Il Gazzettino del Friuli apre invece con la crisi della Cimolai, operazione per circa 400 milioni milioni di euro in derivati che non sono andate a buon fine. Si aggiungono altri debiti per 233 milioni. Chiesta una consulenza alla banca d'affari Lisar. Possibile l'ingresso di un partner. Due manager sollevati dall'incarico. Così il Gazzettino, che si occupa anche dei giovani laureati, perché le aziende straniere fanno shopping di laureati in Friuli. Le imprese di Nord Europa, USA, Canada, Austria fanno scouting a domicilio direttamente in Friuli. Il titolo del Piccolo di Gorizia riguarda il caro bollette, alberghi e locali chiusi in autunno. Tra i richiami di prima pagina, un servizio dedicato all'accoglienza di migranti, la riqualificazione delle terme di Monfalcone, le indagini archeologiche sulle navi romane rinvenute nella laguna di Grado. Altro richiamo per Gorizia, campus scolastici dentro l'ex ospedale, proroga per i progetti. E poi il richiamo a un approfondimento sulla vendemmia e l'annata dei Sauvignon e del Friulano. Il capocronaca di Gorizia riguarda i migranti. Esauriti i centri di accoglienza, rimarranno nell'Isontino. In prima di Monfalcone il titolo è: arrivano 4 milioni per risanare la zona dismessa delle terme. Il Messaggero di Pordenone mette in prima pagina la crisi della Cimolai e i derivati, si lavora per la continuità aziendale, commesse ci sono, la crisi non è industriale, l'ASAR cerca soci e capitali, il rischio però è il passaggio di mano, i dipendenti sono informati e rassicurati, scrive ancora il Messaggero. In prima pagina del Messaggero di Pordenone anche le foto di alcuni giovani ieri impegnati nel recruiting day che metteva in palio 120 posizioni lavorative. Dalle pagine di Pordenone, l'ex birreria che sarà trasformata in ITS Alto Adriatico grazie ai fondi del PNRR. Il Gazzettino di Pordenone, oltre alla crisi finanziaria di Cimolai, riprende la notizia del recruiting day e scrive in 500 per 120 posti di lavoro. Nella cronaca poi il marito geloso che dà appuntamento al sospetto rivale con una Molotov. In chiusura i programmi di oggi, Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione di programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 circa il consueto appuntamento con Vueo Favelin D, che parlerà del Fogolar Furland Great Britain di recente inaugurato a Welling nell'Essex, una nuova casa per i friulani di Londra e del suo Interland, che punta a diventare un riferimento per gli emigranti friulani, molti dei quali giovani, che lavorano e gravitano nell'area della capitale britannica. Alle 11.20 andrà in onda speciale Barcolana 54, condotto in diretta da Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste da Gioia Meloni e Stefania De Maria. Il secondo speciale andrà in onda sempre in diretta domani alle 11.30. I programmi regionali torneranno alle 13.30. Sono le 7.50 minuti. E 20 secondi termina la prima edizione odierna del giornale radio regionale, edizione redatta da Nada Cioc e Paolo Roncoletta, assistenza tecnica in regia di Federico Comara e Maurizio Mona, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Vi diamo appuntamento alle 11.05 minuti circa per l'edizione flash, alle 12.30 per l'edizione meridiana. Vi ricordiamo che le notizie proseguono sul nostro sito www.rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social Twitter e Facebook di TGR FVG. A tutti grazie per la cortese attenzione e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.